come ti ho detto poco fa, ognuno la pensa come vuole. Va bene, va bene, va bene, va bene. Beh, io recupero un coso al computer, recupero, ti riesci. Mi faccio le parti male, lo guardo pure al computer. Ehi, a frati, è vero, quindi ho la PlayStation 5 rispetto alla 4, e la 4 sopporta il calore. La 5 come se tutta la questione della con questo caso se non si usa se non si usa se non si usa se non si usa se non si usa una informazione che si usa si gallo la peccana sì no, ma io c'ho la per sotto c'ho la ventolina, c'ho adesso mi sa che ando nella borsa e la biglio e ve la pongo sotto. Già va bene, tipo la piattaforma con le cose finte, però anche io, ma tu vedi che vabbè, l'altra busta, c'è la qualsiasi qua con le cose finte, è stato tipo in modulazione di fare delle cose, di fare delle cose, c'è più da due schermo, non è niente più a te. Sono riuscito a farla accendere, troppo di fuori di nuovo che ha saldato e si va già e niente, si da una parte perché molte volte se potevo fare un acquisto multiplo da internet e mi fa il pagamento combinato da tutto, mentre con il telefonino non si può fare, lo puoi fare solo con il computer e non farti pagare tutte le spese di distribuzione, per esempio se tipo compro due valvoline, c'è la spedizione di euro, poi per esempio si chiama di euro, in questa maniera paghi tutti gli articoli di prezzo e poi come spedizione complessiva alla fine c'è la classica delle 300 euro come in spedizione, se no se metti tutti gli articoli tipo con il telefonino facendo un affitto con una cosa, non fai più, non te lo fa fare. Più caldo fa più scalda lui. A me grande calda la cosa non mi piace lo sai. Per forza non l'avendo. Vabbè, io ce l'ho dal quel computerino là, ce l'ho che sembra dal 2006 e l'ho usato meno, sono forte e cose, ma di più, però già me lo risistemo perché ho messo che con l'altro giorno non ha bisogno di segnare di giallo, ma perché dicono che una volta che smettono di funzionare le gambe, queste cose qua, tutte le forze delle gambe di tutto vanno alle braccia, disini, poi seguire paura. Più o meno sì, perché devi sviluppare le braccia per muoversi, però certo se anche le braccia poi i muscoli non si tiene, e se mi sento in giro la stessa canzone, se si sentono di più fragile, capito? Di più fragile perché anche se tu fai tutte le cose che sono necessarie, ma l'organismo continua a sentire tutto perché sì, che aspetta, purtroppo bisogna adattarsi, a chi quando uno non funzionano le gambe, sempre con le mani si deve aggiustare, anche la catena d'azzurra e si deve arrangiare a qualsiasi cosa. Io ho messo il problema, nel senso che già conosco qualcuno, ho aperto queste cadre elettriche che si sollevano anche, perché non ti fai fare quelle lì, ti fai dare una di quelle lì? Ma mi sembra che allora è tipo la motoretta. Sì, ma con quella sedia lì, il sedile è bello ed è comodo anche quella sedia. Io l'ho visto uno a Sassari, l'ho visto lì, a Rezzedo, siamo andati, ho accompagnato mio cognato Tonino, già non so se lo conosci, che anche lui è in sedia a rotelle. E ti dico che questo ragazzo si alzava da terra, volo quasi più di... La sedia si alzava più di un metro e mezzo, si alzava. Tra sedia e lui era già due metri. Ho capito. Ma io, tipo io me ne penso, io cammino qua tutti i metri, tre metri, nel senso faccio più passi. Però una volta che ho fatto quei 10 passi, tra, mi devo prendere una sedia vicino o qualcosa, perché la muscolatura delle cuffie, e del bacino fanno fuori il controllo, nel senso che non hanno la forza, non mantengono. Capo, sì, quello sì, è già un bel che ti alzi, è già un bel. Di una cosa, ma sei sempre magro oppure hai ingrassato? No, sono sempre la mia, come si dice, la mia corporatura esile, come si dice, anzi forse ho smagrito di più da quando ho già visto la fine, perché prima, perché già avevo intorno ai 60 kg, avanti di 50, però voglio dire, più o meno, non è che la mia fortuna non era una fortuna da diventare un ormone o... capo, sì, chi vedi, avendo quel peso che c'hai, Infatti io vedo che da un mese di tempo che non ti vedo più, e non lo so se ti sei ingrassato, se ti sei annegato ancora. Se proviamo a terzo livello andava, perché quando ti alzi vuol dire molto se non carichi le gambe di più. Purtroppo alzare che fare la mia, dal mio corpo, così, dalla schiesta, distraio, c'è il coso, c'è per andare in bagno, accompagnarti in bagno e tutto, c'è anche il come si chiama quello lì che c'ha le ruote, se ti metti dietro tu e lo spingi, ti agganci lì, ma non me la metto. Ma io non so cosa mi sono preso qua, io ce l'ho in questa maglietta con quel sedile a sedia per non andare a fare tipo lo scalino del bagno, quindi faccio un po' di vivi, poi una volta che secondo me lo chiamo e mi faccio la sedia, la pista per non rimanere minore, grazie a tutti gli altri, aspetta già che se mi stanno chiamando giù, aspetta un attimo. Gaffa, gaffa Franco, vai tranquillo. Beh, amico del giudice, cambiato stazione, modulazione, grazie poco bellino, eppure avevi la curiosità di sapere, ragazzi.